Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata è la storia della mia gente. Così Mauro Corona sull'ultimo romanzo La voce degli uomini freddi. Il Nobel per la letteratura 2014 è andato al francese Patrick Modiano. Chi è e quali romanzi ha scritto? Oggi vi parlo dell'ultimo romanzo di Mauro Corona, che si intitola La voce degli uomini freddi, pubblicato come gli altri da Mondadori. Era uno dei libri candidati al premio Campiello, uno dei cinque finalisti. Per la verità era il favorito, perché fra i cinque finalisti del Campiello, che è stato assegnato a metà settembre a Venezia, era sicuramente, insomma, l'autore più noto, più popolare. È arrivato invece solo terzo, insomma, non credo ci sia rimasto benissimo lui, però diciamo che Mauro Corona può contare su veramente tantissimi lettori, tanti ammiratori ogni volta che esce un suo libro o finisce in classifica, quindi direi, insomma, che si può consolare tranquillamente. E allora, proprio in occasione del Campiello, ci siamo incontrati e abbiamo un po' chiacchierato di questo romanzo, La voce degli uomini freddi, che è un po' la storia, come lui stesso sentirete nell'intervista, della sua gente, cioè di una comunità che vive in montagna in condizioni veramente estreme. E allora sentiamo che cosa ci siamo detti. Mauro Corona, leggendo questo libro si ha una sensazione innanzitutto visiva del bianco. Bianca è la neve, bianchi sono le api, ma bianco è anche il viso degli abitanti di questo posto. Cioè, sembra tutto così virare sul bianco. Questa è una bella domanda, questa è una bella osservazione che nessuno mi ha fatto ancora. E per salvare un qualcosa ancora di pulito, di incontaminato, questa mi piace questa domanda che mi ha fatto, perché non l'ha notato nessuno. C'è un motivo di quel bianco, c'è questo cercare ancora un qualcosa di pulito, che abbia candore, che abbia la luminosità del bianco. E quindi potevo anche inventare la pioggia al posto della neve, oppure il vento, come faceva Juan Rulfo. Invece ho messo il bianco, come per dire che lassù, prima che fossero arrivati quelli, c'era ancora questo, diciamo, questa leggerezza del pudore, dell'innocenza, anche se avevano le loro beghe, Mi piace questa bella osservazione. È un posto di montagna, è un posto di cui lei racconta, insomma, la vita, il passare del tempo. È un posto dove gli uomini e le donne hanno un grande coraggio ad affrontare la vita. Cioè, sono persone che non si arrendono di fronte anche alla difficoltà della natura e decidono di voler restare lì. Perché? Soprattutto non si arrendono, soprattutto non si lamentano, perché sono nati lì. Le loro origini, le loro radici, è una metafora anche per il luogo d'origine, l'infanzia. Io sono rimasto nel mio paese, a parte che poi questo racconto, tra le righe, non è altro che la storia della mia gente, del mio popolo ertano, non quello di oggi che ormai è armato di web e internet e i phone e i fa. Quello di quei secoli, di quegli anni, fino a 100 anni fa, anche 50 dopo il Vajont. Quindi è la storia di quella gente, rimaneva lì senza lamentarsi, e siccome lì non avevano nulla, come a quei tempi, tiravano fuori tutto con l'opera del cervello e delle mani, e dalla natura, le pietre per le case, il legno per i solai, per gli oggetti, per gli utensili, per il fuoco, la lana per fare i vestiti, le pellicce, la carne, vivevano lì, cioè rimanevano sepolti, questo realmente, non solo nella fiaba del libro, rimanevano sepolti 8-9 mesi e vivevano tranquilli. La neve, la natura, la potenza di questa montagna li abbracciava e li teneva da conto. Oggi questo meccanismo, per mancanza di necessità, è scomparso, per cui io ho visto anche su nel mio paese ragazzi di 20 anni chiamare i pompieri a tirarli fuori l'auto dal cortile perché era nevicato. Cioè, la natura ci è diventata nemica, ma non perché lei è nemica, perché noi siamo ormai incapaci di usare le mani. Invece per questa comunità la natura è sempre madre, mai matrigna. Infatti lei scrive: la natura è quello che è. Non fa male a nessuno di proposito. Lassù lo sapevano, avevano capito e non se la prendevano con la natura. Se una mamma tiene in braccio un peso che non può sostenere, prima o poi apre le braccia e quel peso cade giù. Dicevano così, cade giù. Insomma, anche le valanghe vengono, le slavine, le valanghe vengono spiegate attraverso l'immagine di una natura madre. Una natura madre che fa il suo corso, non è che abbia premeditato di uccidere gente, era lì, era troppo carica, come uno stanco si siede, lei si siede, per quello loro avevano affetto. Non dicevano, come leggo spesso sui giornali, la montagna assassina quando succede una desgrazia. La montagna se ne sta lì impassibile, povera, anzi ci vuole anche troppo bene con le stupidaggini che combiniamo dentro la montagna. E quindi loro accettavano questo fatto, ci ha preso la valanga. Allora dicono, perché c'è anche la metafora, che alla morte non si sfugge. Loro nella loro ingenuità dicevano, andiamo più giù, ecco, per scrivare la valanga. Poi dopo 200 anni li ha presi laggiù, allora dobbiamo andare più in giù. E uno dice no, dobbiamo cercare di non farci prendere, perché anche se andiamo in fondo ci verranno addosso le valanghe della valle di là. Quindi dal destino non si scappa. Però si può evitare il peggio con che cosa? Con ragionamento, dicevano loro. Infatti venne uno che ragionò. C'è un'altra cosa che mi ha colpito in questo romanzo. Per questa comunità è fondamentale il passato, la memoria. Sembra quasi una forma di resistenza la memoria. Cioè sembra che per resistere, per riuscire a vivere in un contesto così difficile, proprio dal punto di vista fisico, la memoria sia per loro preziosa. In che senso? Perché prima è un retaggio di quei tempi che io l'ho sentite queste cose, l'ho vissute, ma mi sono accorto, anche con la storia del Vaillant, che la memoria, o volutamente, o per troppi impegni, o per troppo lavoro, o per l'ansia di vivere, o per la difficoltà di vivere, si tende proprio a non ricordare più, ma anche un vecchio, lo si butta nell'ospizio, chi si è visto, si è visto. Quindi la memoria, in questo romanzo fiaba, l'ho voluta salvare per chi viene dopo. È una forma di rispetto per chi ha tracciato il sentiero prima. E questi uomini si obbligavano, questo succedeva quando ero bambino io, la sera ci si radunava o nella stalla o nei filò, chiamati filò, questi raduni di gente di varie famiglie, e uno per uno si ricordava quello che era successo, a voce. Certo che nessuno scriveva. E questi qui invece li ho fatti scalpellare in un'enorme caverna, grotta, tutto quello che era successo, perché sapevano che prima o dopo non ci sarebbero più stati, non annientati in massa, ma uno alla volta sarebbero morti, e quindi volevano che chi veniva dopo avesse ricordato quello che aveva. Perché quel sasso era messo così? Perché serviva una cosa, anche per tramandare anche una manualità, una cosa, quello che faceva i violini, hanno cominciato a fare i violini e uno ogni volta suonava un po' meglio, ma siccome si dimenticavano, dicevano il legno deve essere spesso un mezzo dito perché suoni bene. Quindi la memoria come riconoscimento e rispetto e omaggio a chi c'era stato prima, ma anche tecnicamente per non dimenticare le cose che andavano bene. Ma per Mauro Corona, quindi, scrivere romanzi è una forma di memoria? Assolutamente, io tutto quello che ho scritto, pur aggiungendoci di mio, con l'invenzione, ma ho solo salvato la memoria. Ed è un esercizio che, se uno scrittore non tra le righe, come diceva Mozart, la musica è tra le note, se uno scrittore tra le righe non cerca di salvare qualcosa, è uno scrittore finito, è un cronaca, uno che fa cronaca, cioè usi, costumi, tradizioni, la cultura, i modi di vivere, la parlata, cioè in un romanzo io cioè, l'ho salvati. In un romanzo che ho scritto qualche anno fa, Il canto delle manere, che sarebbero le asci, non è altro che, col pretesto del raccontare una storia molto inventata, ma è anche qualcosa di vero, c'è, ci ho messo dentro tutta la tecnologia dei boscaioli usata fino agli anni 50, ora scomparsa completamente. Come fai a far cadere un albero a monte se è piegato a valle? C'era un modo. Quindi è dovere salvare la memoria, soprattutto se non proprio per fini chissà che nobili o alti, per soddisfare quel sentimento naturale che è la curiosità. Io vorrei sapere com'era Erto 500 anni prima. Ecco, vorrei averlo letto, vorrei aver avuto una scultura di un qualcosa, di un volto di quegli anni lì. Perché la curiosità è una cosa molto bella, è frustrante quando non viene esaudita, o come si dice, insomma, se non viene, non mi viene la parola. Se non viene seguita, insomma, non viene esaurita. Se non viene vista. La comunità di cui lei parla in questo romanzo teme quasi il sentimento della felicità. A un certo punto dice è come se fosse il sole sulla neve, cioè può sciogliere qualcosa di noi, forse la nostra identità. Gli abitanti si sentono liberati dal desiderio della felicità. Sì. Aspirare alla felicità è un peso. Non è un peso, però comporta enormi, terribili, continue, disastrose delusioni. E questa è una frase autobiografica, cioè le mie paure l'ho messa in bocca loro, cioè non ti puoi aspettare, non puoi farti aspettative o sogni. Quello che capita lo devi valutare bene, se può essere anche una piccola felicità, e magari noi non ce ne accorgiamo perché miriamo ad alto, e quindi noi ci accorgiamo che magari le piccole cose sono una fonte di felicità. Quando ci vengono a mancare, allora ci accorgiamo che avevamo sotto mano qualcosa di bello, di piccolo ma bello, e non ce ne siamo accorti perché si ambiva al più alto. Loro hanno capito che essere felici lassù è difficile, felici soprattutto in un posto anche ostile, e quindi godevano della felicità, e lo godevano proprio per non volerla. Quindi tutto quello che capitava loro era bello. È una formula di salvamento, in pratica, l'ho adottata su di me. Anche altre cose, loro erano attenti a non desiderare, insomma. Ma non è una forma così di rinuncia? Certo, è certo la rinuncia. Quando si mette un bambino all'angolo, un bambino piccolo, 3 anni così, e ci si travestra da mostro e gli si va incontro per sbranarlo, questo urla finché non ne può più, e cosa fa? Si butta contro il mostro, gli va in braccio. E questa è una forma di rinuncia, perché nella mia vita, beh, la salute l'ho avuta, forse ce l'ho ancora, non ho fatto analisi, però nella mia vita tutto quanto mi dava una lucina di felicità, 2 secondi dopo veniva bastonato. Ma poi anche nell'amore mi è successo, ho scritto anche un libro, un po' il sasso nella corrente, su questa, cioè dire ti amo, bisogna stare molto attenti. Perché quando hai detto ti amo, me lo devi dimostrare, non rendermi la vita un lavoro usurante, riempirmi di angosce, di ansie, di paure, di insicurezze. Se questa è la forma di amore, che una persona mi dice ti amo, io preferisco non me lo dica più. Ma Mauro Corona è stato o è un uomo che sa godere della felicità, o preferisce evitarla? No, non preferisco evitarla. Come calcolo, come dire, ma ho imparato e può sembrare una retorica, una fase demagogica, ma ho imparato a vivere ogni mattina. Io nasco ogni mattina. È difficile imparare, perché magari andiamo al bar, prendiamo il caffè, ma che caffè, ma questo caffè fa schifo, li ho sentiti io. No, non mi fa schifo più nulla. Ho 64 anni, sono arrivato qui adesso, sono come un vecchio aereo che va in discesa a motore spento, mi va bene tutto, perché so che mi guardo attorno, c'è gente peggio di me, c'è gente che non cammina, c'è gente morta a 20 anni, a 10, e in fondo io cosa mi lamento? È difficile però imparare, perché ci si dimentica durante il giorno, e capitano poi le ombre, capitano i malumori, io non vorrei non averne più. Quindi ho imparato a essere felice aspettando la felicità. Un'ultima domanda, lei insomma ha la fama di essere un ribelle, fra virgolette, insomma, uno sì. che non è inserito nel sistema, mettiamola così. Come mai ha deciso di accettare la candidatura a un premio letterario? Insomma, perché si sa, nel mondo dell'editoria i premi letterari vengono visti un po' come espressione appunto del potere, delle case editrici, eccetera. Perché lei ha deciso? Questa è una domanda molto bella, è molto, molto mirata, e apprezzo molto questa domanda, perché mi permette di tirare fuori il perché io ho avuto una vita infelice. Non ho potuto andare a scuola, che mio padre mi ha massacrato, ha quasi ucciso mia madre di botte finché ha dovuto separarsi, siamo cresciuti orfani di genitori viventi. Non ho potuto andare a scuola, ho letto molto perché avevo la passione ereditata dal DNA di mia madre, ho letto Camion di Tom, 2 tir di libri, e quindi trovarmi a un premio letterario di prestigio è un riscatto della mia esistenza. E questo era Mauro Corona, ora in libreria con La voce degli uomini freddi, pubblicato da Mondadori. The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French author Patrick Modiano for the art of memory, which he has evoked the most ungraspable human destinies and uncovered the life world of the occupation. E insomma, l'annuncio l'avrete forse riconosciuto, quello del Nobel per la letteratura 2014, che è stato assegnato al francese Patrick Modiano. La motivazione, insomma, con cui l'Accademia di Svezia ha spiegato questa scelta: per l'arte della memoria, con la quale ha evocato i destini umani più inafferrabili e ha svelato la vita reale durante l'occupazione. Questo perché Patrick Modiano, appunto, dicevamo, scrittore francese, 69 anni, ha concentrato la maggior parte della sua narrativa su un periodo storico, quello dell'occupazione della Francia da parte dei nazisti. In più c'è anche un elemento personale, nel senso che il padre di Modiano era ebreo, ma era stato anche un collaborazionista, e quindi, insomma, si era salvato dai campi di concentramento grazie a queste sue amicizie poco limpide con i gerarchi nazisti. E questo, insomma, ebbe un peso notevole nella mente, proprio nella formazione di Patrick Modiano, che poi nei suoi libri ripropone sempre questo concetto dell'ambiguità del bene e del male, e sempre questo tema, appunto, della Parigi occupata dai nazisti negli anni 40. Diciamo, insomma, la verità che Patrick Modiano è veramente poco conosciuto in Italia. Giusto per farvi qualche esempio, qualche titolo, uno dei suoi romanzi più famosi è Dora Bruder, pubblicato in Italia da Guanda. Ma poi altri sono stati pubblicati da Einaudi, come per esempio Un pedigree. E negli ultimi tempi è uscito un libro per bambini che lui ha scritto, è uscito per l'editore Donzelli, che si intitola Caterina Certezza. E allora, per cercare di scoprire qualcosa in più di questo scrittore Nobel per la letteratura 2014, ma poco conosciuto in Italia, abbiamo sentito il francesista Giuseppe Scaraffia. Ma io ne sono profondamente contento, ma anche stupito, almeno stupito, quanto l'editore di Modiano, Antoine Gallimard, ha detto che ne è rimasto lo stesso Modiano. Cioè, di solito la gente, gli scrittori, per avere il Nobel intrigano, fanno tutta una serie di manovre. Modiano niente, non ne ha mai fatte in tutta la sua vita. Il che, visto il suo grande valore, lo aveva relegato in una strana posizione in cui era stimato, ma nessuno, come si dice, se lo filava davvero. Ecco, diciamo che mentre in Francia comunque è un nome già affermato, ha vinto il premio Goncourt, che è il premio letterario più importante in Francia, anche se parecchi anni fa, come lei ricordava, è pubblicato dall'editore forse più importante d'Oltralpe, certo, che è appunto Gallimard. In Italia, insomma, il nome di Patrick Modiano non è molto conosciuto. Come mai? Non è molto conosciuto, è legato appunto a editori come Guanda, che ha pubblicato la bellissima Dora Gruber, o Einaudi, che ha fatto qualche timido tentativo con l'autoritratto Pedigree. E in Italia, dunque, il mondo della traduzione è veramente un mondo a sé, come il mondo dei premi, un mondo soprattutto fatto di relazioni. E Modiano non è un uomo di relazione, è un uomo che vive chiuso in casa con la sua famiglia, è un uomo che prima del Goncourt ha avuto pochi premi, e tutti i premi sbagliati, non quelli che servono a salire, ecco, diciamo. E soprattutto un uomo che non fa parte, ecco, di nessun gruppo letterario, di nessuna confraternita. Un uomo che vive soltanto per scrivere, veramente un esemplare rarissimo, lontanissimo, ecco, per esempio, da dei tromboni strategici astuti come Houellebecq, o da dei personaggi simpaticamente ordinari come tanti altri autori. Scaraffi, allora parliamo un po' dei contenuti, insomma, della letteratura di Modiano. Insomma, è stato premiato soprattutto perché ha fatto luce su un periodo storico particolare, che è quello dell'occupazione nazista della Francia. Infatti i suoi romanzi sono quasi sempre ambientati nella Parigi di quegli anni, insomma, della Seconda Guerra Mondiale. Quali sono i temi a lui cari, e qual è, insomma, l'elemento secondo lei più rilevante, più bello della sua narrativa? Dunque, da un lato bisogna dire che si sprigiona una dolcissima nostalgia dalla lettura delle pagine di Modiano, un po' come, pensate quando, non so se qualcuno si ricorda, quando si mettevano i vecchi giradischi, quelli con la puntina, si sentiva quel lieve sfrigolio che scatenava subito una nostalgia. Ecco, Modiano si è dedicato a questo periodo che adesso da una decina d'anni è totalmente sdoganato, ma quando è iniziato lui era veramente un periodo tabù, perché era un periodo irrisolto, un periodo in cui molte autorità della destra, ma anche della sinistra, avevano avuto dei patti con gli occupanti nazisti che avevano preso gran parte della Francia e soprattutto Parigi. Ecco, in Modiano i nazisti diventano l'emblema del male, di un male sia feroce sia ambiguo, perché infatti il padre di Modiano, così diverso da lui, un avventuriero tutto elegante, un avventuriero ebreo, si era salvato proprio grazie a alcuni dei più spietati carnefici dei collaborazionisti. Lui stesso era stato appunto un collaborazionista, insomma, nel governo di Vichy, quindi era una figura un po' ambigua, e ritorna un po' questa ambiguità anche nei romanzi di Modiano, cioè di come Modiano vedeva la figura del padre. Assolutamente, ecco, questo è stato sostenuto da Modiano in un periodo, questo dell'ambiguità, per noi anche questo è una conquista abbastanza recente, ma quando ha cominciato lui era veramente pericoloso dire che il male è ambiguo, che non è univoco, che anche il bene ha delle grandi ombre, quindi è stato un uomo coraggioso, però sempre in un modo molto discreto. Ecco, la moglie di Modiano ha detto che suo marito ha dato una bella definizione, è un detective metafisico. Che vuol dire? Vuol dire che cerca, indaga nel passato e soprattutto io aggiungerei che ritrae questo tempo che fugge costantemente, cerca di salvare il passato sull'arca di Noè della sua scrittura, e riesce a farlo con un mix che ha soltanto lui di delicatezza e di profondità, e poi anche con la profonda musicalità del suo stile. Modiano, lei l'ha detto, insomma, uno scrittore, diciamo, che non frequenta i salotti letterari, non si dà alle public relations, insomma, non fa squadra. Com'è personalmente poi nella vita privata questo autore? Ma dunque, si è fatto molto poco vedere, vive molto tranquillamente con la sua famiglia e quando si fa vedere è così incerto, insicuro, sembra un po' come quei personaggi che vengono liberati dopo anni, no? E che vedono la luce del sole e si trovano ancora a disagio, perché lui vive in questo passato. Ecco, se guardiamo nel suo album di fotografie vediamo appunto questo padre con tutti i capelli imbrillantinati, un'aria decisa, molto elegante, e l'amatissima madre, che era un'attrice vestita con grande eleganza e però una donna anche di grande bellezza, tutti molto diversi, tutti dei personaggi così attivi se non aggressivi, diversissimi da questo figlio introverso. L'abbiamo detto, Patrick Modiano è insomma relativamente conosciuto, diciamo anche che è poco conosciuto in Italia, possiamo dirlo. E se qualcuno, un lettore, volesse iniziare a leggere, dice beh, voglio iniziare a leggere lo scrittore che ha vinto il Nobel per la letteratura nel 2014, secondo lei da quale libro dovrebbe iniziare? Qual è il libro di Modiano che lei consiglierebbe? Ma io consiglierei proprio Dora Bruder, pubblicata da Guanda, dunque, perché l'ispirazione gli era venuta guardando un vecchio giornale del mio padre 1941, in cui aveva letto un trafiletto e cercavano notizie di una ragazza di 15 anni, Dora Bruder, scomparsa. E di lì era cominciata la sua ricerca, in questo senso è un detective metafisico, e aveva ricostruito tutta l'avventura, tutti gli ultimi giorni di questa ragazza. Ecco perché non dimentichiamo che sullo sfondo dell'opera di Modiano c'è sempre la grande deportazione degli ebrei in Francia. Ecco, anche questa è una cosa molto imbarazzante, perché la Francia ogni volta è venuto fuori che è un paese che ancora adesso è rimasto piuttosto antisemita, ma che allora lo è stato moltissimo, e in cui c'era stata una grande collaborazione nella deportazione degli ebrei. Perché secondo lei l'Accademia di Svezia ha voluto premiare Modiano? Insomma, perché è francese, perché appunto parlava di nazismo, per il suo stile letterario. Secondo lei qual è il motivo principale? Il motivo principale è veramente imperscrutabile, viste le ultime scelte, forse si sono sbagliati. Tanto il Nobel non si può ritirare, insomma, con tutti i premi. Il Nobel sta lì, lui non è uno scudetto. In passato non è andato anche a Camus, quindi ogni tanto ci prendono, ecco, d'altronde sono delle cose umane di sbagliare tanto. Grazie allora a Giuseppe Scarafia per averci aiutato un po' a conoscere meglio Patrick Modiano, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2014. E questo era il francesista Giuseppe Scarafia, che ci ha aiutato un po' a capire qualcosa di più del Nobel per la letteratura 2014, Patrick Modiano. Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri. Vi ricordo che trovate sempre il podcast, ci trovate su Twitter come Ale Teddina e poi naturalmente su Facebook come Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato, da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.